una versione rifatta dalle Bananarama di questa canzone di un bel po' di anni fa, che è Venus. E intanto volevo ricordarvi che partirà, anzi è partito lunedì 20 febbraio, il secondo corso di formazione radiofonica organizzata naturalmente dalla nostra radio CRM Pirelli con il patrocinio del comune di Cefalù. Il corso avrà una durata di 4 settimane, quindi fino al 24 marzo, durante le quali gli aspiranti speaker, fonici e animatori avranno la possibilità di apprendere direttamente sul campo quelle che sono le peculiarità di una radio, del mondo radiofonico, naturalmente in particolare il flusso di lavoro che gira intorno a questo splendido mondo che è la radio. Voi potete approfittarne mandando il vostro, se volete partecipare naturalmente, il vostro curriculum a formazione@crmpiradio.it. Le lezioni saranno aperte, le selezioni scusate, saranno aperte dal 18 gennaio, quindi affrettatevi perché vi facciamo scoprire quanto è bello il mondo della radio. È davvero molto molto bello, molto affascinante. Poi fra l'altro so che in questi periodi sono alcuni negozi che oltre a farci sentire ci fanno anche vedere. Grazie Santina per tutto questo. 17:26, giusto per ricordarvi che siamo rigorosamente in diretta. Devo salutare anche quelli che seguono la replica in notturna. La mia credo parta da mezzanotte. Jennifer Lopez, poi l'altro giorno ho visto anche il video di questa canzone, mamma mia quant'è bella lei, è brava, perché la sigla della 20th Century Fox, perché dobbiamo parlare di Oscar, attenzione perché sarà battaglia tra Hugo e The Artist. Ne abbiamo parlato l'altro giorno, che in The Artist c'è anche il cane, che adesso non mi ricordo come si chiama, che qualcuno l'ha anche proposto per un Oscar. Andiamo per ordine. Sono state quindi rese note a Los Angeles le nomination per i premi Oscar, che saranno assegnati il 26 febbraio. Mattatori sono film di Scorsese, Hugo, con 11 nomination. E il film muto è in bianco e nero, fra l'altro, si chiama The Artist, con 10. Tra gli altri candidati come miglior pellicola ci sono War Horse di Steven Spielberg e The Descendants con George Clooney, unici candidati italiani Dante Ferretti e Francesca lo schiavo per Hugo. Enrico Casarosa per il cortometraggio La Luna. Al terzo posto, a pari merito con 6 nomination, ci sono Moneyball con Brad Pitt e poi il film di Steven Spielberg, questo qua, Moneyball. Ma sono tante le sfide incrociate create dalle scelte della Comedy, perché se Hugo e The Artist sono i film con più candidature, Martin Scorsese, Woody Allen e Terrence Malick incrociano i guantoni per miglior regia e miglior film. Vedremo come andrà a finire. Naturalmente vi faremo sapere, terremo d'occhio, anche perché poi c'è la notte degli Oscar, che è una delle serate più belle, credo, da vedere, per il semplice fatto che vedi un po' per terra tutti i big del grande schermo, tutti messi insieme, tutti in una volta. Una cosa che diventa bellissima, veramente. 17:30. Questa è la radio che si sente, si vede, che ti regala le belle emozioni fatte di note, di musica, soprattutto di belle canzoni. Canzoni meravigliose, oserei dire. Molti mari e fiumi attraverse. Che canzone, che bella che è di Gianna Nannini, mi piace davvero tanto tanto tanto tanto, proprio tanto. Allora, stavo dicendo quest'altra notizia, probabilmente potrebbe far piacere al sottoscritto, perché vi spiego subito il perché dal Giappone arriva una notizia. Aspetta, mi date anche la base adatta per, ecco, una partenza di auto perfetta. Pensate che questa è una partenza d'auto registrata live durante l'ultima edizione della Targa Florio. Io come al solito ho messo la... No, perché parliamo di auto, in particolar modo parliamo di gomme. È dal Giappone un rivoluzionario pneumatico. Allora, è senza aria che potrebbe porre fine al problema delle forature e ai pericolosi scoppi ad alta velocità. La inventa la Bridgestone, il più grande produttore al mondo, afferma che il suo nuovo prototipo non si afflosserà mai. Inoltre, il pneumatico è costituito da una resina plastica che può essere riciclato ed è quindi una cosa in più per l'ambiente, una cosa bellissima a questo punto possiamo dire. Però mi sa tanto che anche qua si consuma, no? Se tu fai delle partenze così, si consuma anche quello, credo si consuma anche quello. E allora, che dobbiamo fare adesso? Dovrebbe esserci ancora una canzone? Sì, una canzone che ci porta ancora indietro nel tempo, come al solito. Vi regalo sempre le belle emozioni fatte di musica con dei dischi che andiamo a ripescare anche indietro nel tempo, se non più lontano, perché molte volte addirittura siamo andati indietro con una sorta di macchina del tempo, indietro sino a 30-40 anni. Però poi capita che ci avviciniamo un po' e nel nostro palinsesto diamo tantissimo spazio anche ai grandi successi attuali, oltre che a quelli di qualche periodo fa. Voi potete interagire con noi come facilissimo, le linee telefoniche le conoscete, 335-5637-251, 0921-923292. Poi invece per gli amici che ci seguono da oltre oceano, perché so ce n'è tanti che ci seguono dall'America, so qualcuno anche dal Giappone. Ecco, è così, ormai abbiamo battuto un po' tutte le distanze con internet. Allora come fare? Facilissimo. Basta inviarci un messaggino, lo trovate proprio nella pagina, nell'home page. Quando voi andate ad aprire CRM Happy Radio, oltre al fatto di vedere lo streaming, avete la possibilità anche di inviare i vostri messaggi, quindi la canzone che volete ascoltare, soprattutto accompagnata dal saluto che volete fare. Poi potete usufruire anche del nostro profilo Facebook, CRM Happy Radio, o eventualmente, lo dico sempre, potete sempre fare i segnali di fumo. Io mi affaccerò all'esterno e cercherò di captare il messaggio tramite il segnale di fumo. Però vabbè, dai, ci sono tanti tanti modi per farlo. Più tardi, come al solito, avremo il nostro carissimo amico, compagno di viaggio, Rambo, per la solita diretta. Parleremo di calcio. Stasera c'è la Coppa Italia di fronte Juve e Roma. Due belle novità di questo campionato 2011-2012. Sono credo le due squadre che stanno andando meglio in questo periodo. Intanto, che ne pensate di trascorrere una bella notte in Bangkok? Watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. One night. Anche se il nostro stato d'animo che ingresso trionfale che fai, Rambo. Puoi entrare? Sì, puoi entrare, la porta è sempre aperta per te, Rambo, lo sai. Ma ci caso, avevo allargare la porta. No, ci, come? Ci? Ci entro, ah. Non devo entrare la porta. E com'è che avevi detto prima? Ci caso. No, ah, ci caso, ci capo, che avevi detto? Ci caso, va bene. C'entri, c'entri, Rambo. Senta, casomai allarga gli spazi. Ma come devo fare? Adesso la gente mi ferma per strada e mi chiede di terra. Io non ti lascio mai in pace. Ma te, ormai sei il mio compagno di viaggio, lo sai, no? Sì, senta, lo sai, ma non partiamo male. Ora partiamo. Tra l'altro, senti, c'è un amico nostro che ci sente dal Bronx. Sai dov'è il Bronx, no? Sì. Dove? Come hai detto, no? Aspetta, metto basso la radio. Ecco. Mare. Allora, sai, mi senti adesso? Sì. Sai dove si trova il Bronx? Il Bronx si trova. Dove chi si è il Bronx? Come? Pronto! Dove si trova il Bronx? Il Bronx dove, Robert? Non è il Bronx. È il chi è il Bronx, Robert? Scusa. Bronx, Bronx. Bronx, chi è il Bronx? Allora, adesso tu vai... su Google Map, fai Google Maps ecco, e clicchi Bronx cortesemente, perché quando tu entri in diretta con me devi essere preparatissimo. Il Bronx si trova in America. Ah. Allora, siccome noi abbiamo amici che ci ascoltano dal Bronx e visto che tu vuoi fare un viaggio, lancia l'appello se ci ospitano a casa loro. Diglielo, avanti. Si chiama Ignazio, diglielo. Ciao Ignazio! Faccio l'appello? Sì. Se ci ospita? Sì, vai. Ignazio, ci ospita a casa tua. Cioè, se lo dici così, Ignazio, manco nel sottoscala ci fa stare. Ma sottoscala? Cosa faccio una cosa? Scartino. Dico un po' più convincente, Ra. Ignazio, se ci vuoi ospitare a casa tua. Per favore, la parola gentile qual è? Se ti vuoi ospitare a casa tua. Qual è la chiave che apre tutte le porte, Rambo? La chiave della tua porta qual è? No, la chiave che apre tutte le porte qual è? È la gentilezza. Perfetto. Tu come ti chiami di cognome? Gentile Francesco, ecco, detto no, Rambo. No, di cognome Gentile Francesco. Detto Rambo. Detto Rambo, quindi più gentile di te, dico, chi potrebbe esserlo? Nessuno. No, io penso di sì, no? Tu che dici? Allora, rifai questo annuncio in modo più convincente e più effettuoso, ecco. Grazie, gentilmente ci puoi ospitare a casa tua. Per favore. Che non abbiamo i soldi per andare in albergo. Dolore ce n'è. E allora, oggi c'è la Juve, Rambo. Vai, stagioniamo in giro, spacca molte cose. C'è l'allenatore della Roma, Luis Enrique, che è convinto di togliere l'imbattibilità alla Juve. Hai visto forse a Pierino quando era Nico? Quale Pierino? Se quando era Nico forse visto a Pierino. Ha visto il film di Pierino? Sì. Quale? È Cotechino, quello che Cotechino. Mino ne prende tre la Roma. Sì, ma sai che la Roma è quasi in formazione tipo, la Juve sta facendo una sorta di ma turno. Ma niente, lui può essere tutto la squadra di Ercole pure. Immattiamo stasera. Uguale, vinciamo uguale. Oh, se mettiamo 3-1, Roberto, non è parola mia. Sì, ma ora senti un'altra cosa, io ti aspetto sabato pomeriggio a casa mia per quindi ha fatto bene la carriola. perché hai avuto problemi con la macchina. Bisognava pensare a Roberto, per che paura. Succede? Ma io già l'avevo visto qualche settimana fa quando sei venuto a vedere la partita e poi sei rimasto a casa mia. No, sei rimasto a casa mia, poi no. Abbassi sta radio, Rambo. No, me ne sono andato, ero con l'amico mio. No, quel giorno, però poi sei venuto per il mio compleanno a casa mia. E poi siamo andati a prendere il caffè con Angelo. Ecco, perfetto. Prima di andare a prendere il caffè, ho visto che hai messo un po' di acqua dentro il radiatore. Io ci voglio mettere lo vino, lo stesso. Acqua nel radiatore, quindi vuoi sapere che cosa è successo? Ho bruciato la testata. Bravo! Questo non me lo dovevi dire, Rambo. Però cosa ti chiamava a butto segno? Il meccanico con Capone, no, sto preso da lui. Scusa, il meccanico con la buona volontà. Scusa, Rambo. La macchina. Rambo, il meccanico cosa? Ha cominciato a smontare la macchina. Ah, Camora, no, credo sia giapponese, no? Ha cominciato a smontare. Ah, perfetto. La testata è partita. Non ti preoccupare perché la Batmobile di Rambo ripartirà. Io pensavo che era partita la testa mia. Quella è partita da già da un bel po' di tempo. No, che non parte mai, Roberto. Rambo, siamo in ritardo con la pubblicità, facci la pubblicità per favore. Vai pubblicità, forza Juve. Ci sentiamo domani. Ciao, bellissimo! Un bacione! E forse ladri! Cosa? Forse ladri! Chi sono i ladri? Tu sai, era... Oggi va bene così. L'unica cosa che conta è che tu sei qui. È quando cade una stella. Non sono mai quella che... Il desiderio più bello lo esprime per sé. È passato il tempo ma ti ricordi anche tu. Erano giorni belli che somigliavano ad angeli. E questa notte sarà non è quella che si ricorda, perché il tempo solo cancella le lacrime. Però il ricordo più bello rimane vivo, perché il tempo solo non riesce a nasconderti a me. Passato il tempo ma ti ricordi anche tu. Erano giorni belli che somigliavano ad angeli. E questa notte a te, fragile.

l'ultima notte al mondo io la passerei con te, mentre felice piango e solo io posso capire al mondo quanto è inutile odiarsi nel profondo. Ho incontrato il tuo sorriso dolce con questa neve bianca, adesso mi sconvolge. La neve cade, cade pure il mondo, anche se non è freddo, adesso quello che sento è ricordati, ricordami, tutto questo coraggio non è neve, non si scioglie mai, neanche se deve, non darsi modo di star bene senza eccezioni, crollare davanti a tutti e poi sorridere, amare non è un privilegio, è solo abilità, e ridere di ogni problema mentre chi odia trema. Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente, è così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. È positivo al massimo in quest'ultima canzone, no. Questo ultimo suo singolo, Tiziano Ferro, dico, no? Si chiama L'ultima notte al mondo. Potete toccarli, potete fare i scongiuri, fate quello che volete. Va bene, intanto devo salutare e ringraziare Chiara e Gaetano, il mio carissimo amico Gaetano, sono loro che l'hanno richiesto questa canzone. Ci portano dritti dritti all'appuntamento con l'informazione, sentiamo cosa è successo in quest'ultima ora. Poi torneremo come al solito con un flashback e dovrei andare a pescare una canzone napoletana, però bella da sentire, perché il mio amico Ignazio dal Bronx vuole sentire una canzone napoletana. Mi sto sbizzarrendo. Voglio vedere se riesco a beccare. On the road. Flashback. Com'è imparata fa? Com'è imparata fa? Si dopo tanto tempo ti si scordate me. E quando mi guardava, lei pure ti guardava, con l'occhio mi studiava, tutte mosse capaci. Si innamora di me, ma sentimi, chi ti fa fa, e torna una ta volta in braccio a chi nulla. Si innamora di me, c'è pensa e torna la tua volta a duchilla. Che t'ha giudita fa, che t'ha giudita fa, ruamma la tua volta, un'ora può bastare per te sentire parlare e per te dicere capo. Aspettava niente a te, che quello che si sta. Si innamora di me, ma sentimi, chi ti fa fa, e torna la tua volta in braccio a chi nulla. Si innamora di me, ma sentimi, non c'è pensa, e torna la tua volta a duchi nulla. Te si spugliata ca, te si spugliata ca, si bella e non lo saccia, come faccia a te guardare. Te voglio bene ancora, ma se dice poco di, e intanto ti contenta con questa canzoncella. Si innamora di me, ma sentimi, chi ti fa fa, e torna una ta volta in braccio a chi nulla. Si innamora di me, ma sentimi, non c'è pensa, e Oh, Sega, quanto ti guarda? Vai, che sei cantato numero uno. Ma tu vedi cosa riesco a trovare? Che sei fantastico, Roberto! Ehi, che poi la gente cosa può pensare, Rambo, che abbiamo una storia tutte e due? Sei cantante, sei cantante! Senti, senti, c'è Ignazio che mi ha lanciato un messaggio dal Bronx, sì, dall'America. Sì. Mi ha detto anche se fa freddo, lui è disposto ad ospitarci. Hai capito? Fa freddo, cavolo, c'è. E allora mi devi dedicare questa canzone, per favore, Rambo, ad Assunta, che è la moglie. Vai. Un brano per la signora Assunta. Comincia a entrare nella parte del disc jockey tu, eh? Fallo con più, come facevano i DJ anni 70-80. Seguivi la radio in quel periodo, Rambo? Sì, dobbiamo dedicare una canzone alla signora... Come si chiama? Assunta. L'hai dedicata? Sì. Con più enfasi, con più allegria, Rambo, vai! Ora segna mezza volta, Roberto. Spero che piaccia questa canzone ad Assunta, Rambo. Vabbè, ma non è questa canzone a mia. Quale? Tu sai quale voglio, Isa. Quale Isa? Tu sai quale è la canzone. Ti ho detto Isa, che si intitola I Se Te Pego. Quale Isa? Sì, Isa. Mangiamo a cucco, te. Rambo. Allora abbiamo dedicato la canzone, forse ci siamo guadagnati mezzo pernottamento. Va bene. Ok, salutiamoli. Vai, fai. Sì, ciao a tutti, Ignazio. In americano lo devi fare, in inglese. Bonsoir. Eh? Bonsoir francese. Io americano non lo faccio come. Bonsoir è francese, Rambo. Americano non lo so come. Diglielo, see you later. See you later. Eh? Quello è quello è giapponese, Rambo. Non lo so dove andrò, ancora no. Vado dove vai tu e ti seguirò, tanto non ho altro da fare più. Aspettavo te da tanto. Quasi non ci credevo che arrivassi più. Non lo so che cos'hai, so cosa sei, quella che fa per me. È destino mai che io diventi quello che fa per te. Ci credevo, però non mi ero arreso. Stammi vicino e ogni cosa vedrai. Col tempo tutto arriva. Senza di me. Aspettavo te da tanto tempo ormai, che quasi non ci credevo. cielo dove vai tu. Tanti anni fa, anzi qualche anno fa, non avremmo mai immaginato di sentirci così vicino all'America, oggi invece lo facciamo. Vasco Rossi sta a me vicino, per l'appunto questo è un assist, noi adesso dovremmo fermarci invece un attimino, poi continuare a regalarvi la bella musica, devo ancora fare un sacco di saluti. Nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia. Assim você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada, a galera começou a dançar. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Ovviamente abbiamo deciso anche di ingaggiare, di assumere un truccatore, non truccatore, sì, un qualcuno che faccia il trucco, che rifaccia il trucco, perché visto che ormai siamo anche in diretta live, giusto, voi vedete in televisione che lo fanno, no? Tra un cambio di scena e un altro, tra una pubblicità e un'altra, arriva dentro il truccatore che dà un ritocco, e allora noi dovremmo fare la stessa cosa, anche perché poi c'è tanta gente, a proposito di guardarci, dicevo prima che ci sono i negozi che sappiamo ci mandano in diffusione, quindi dobbiamo salutare i clienti, ma lo dobbiamo fare in particolar modo a chi anche ha deciso di mandarci in video, dicevo prima, Santina Monellina. Grazie a te, naturalmente ai tuoi clienti o alle tue clienti. Vi regalo questa bella canzone. Tornerai. Ogni tanto sto da sola e sono sicura che non mi ritroverai. Tornerai. Ogni tanto sono stanca di riascoltarmi mentre piango la mia infelicità. Tornerai. Ogni tanto guardo indietro e scopro come il meglio di questi anni sia passato di già. Ogni tanto tremo di paura, ma poi nei tuoi occhi sento quello che sei. Non sai. Ogni tanto cado e non ci sei. Non sai. Che ogni tanto cado e non ci sei. che d'ora è solo un'assurdità. Se non ci pensi tu, eclissi del cuore sarà. Ogni tanto so che non sarai mai quell'uomo che davvero io vorrei. Ogni tanto so che sei quell'unico che sa come trattarmi nonostante i miei guai. Ogni tanto so che nell'intero universo non c'è niente che somigli un po' a te. Ogni tanto so che non c'è niente di meglio e niente che per te non farei. Ogni tanto cado e non ci sei. Che ogni tanto cado e non ci sei. Ora ti voglio più che mai. Ora ti voglio qui per sempre. Se solo tu mi sfiorerai, ci stringeremo eternamente. Ce la faremo se tu vorrai. Non sbaglieremo mai insieme. Assurdità. Se tanto non ci sei, eclissi del cuore sarà. Eclissi del cuore. Eclissi del cuore sarà. Che bella questa canzone. Laura con l'apostrofo assieme a Neck, Eclissi del cuore, a riprendere, dicevo qualche giorno fa, questa vecchia canzone di Cyndi Lauper che si chiama Total Eclipse of the Heart. Bella, bella, bella quanto mai, davvero. Spettacolo questa canzone. E allora parliamo un attimino a proposito di spettacolo dell'Isola dei Famosi, che perde la storica conduttrice Simona Ventura. Riparte quindi l'Isola dei Famosi, il nuovo volto sarà Nicola Savino, mentre Vladimir Luxuria, vincitrice del 2008, sarà inviata in Honduras. I due promettono meno drammatizzazione, più ironia. Per la nona e nuova edizione, un cast di ex naufraghi, tra cui Ruby Condi, poi Apicella, Eliana Cartella. Dice: ma chi è Eliana Cartella? È l'ex di Balotelli, Mario Balotelli, il giocatore ex dell'Inter, adesso il Manchester City. Poi Gwendalina, ex Grande Fratello, Bertolani, l'ex della Prati, e il divino Telma, tutti ex. Speriamo che siano ex attori o ex VIP che possano rimanere là. Non so cosa volevo dire, ma vabbè, un discorso tra me e me. Vladimir Luxuria ha raccontato che il mago Telma è arrivato in Honduras con tutto l'armamentario del mestiere, di essere stato per questo è bloccato dalla polizia. Cioè, ma tu pensa un po', per ora, cioè, già abbiamo una fama adesso di codardi grazie a Schettino. Poi arrivano personaggi del calibro del mago o del dolce, com'è, del divino Telma. Cioè, la gente cosa può pensare dell'Italia? Ma statevene a casa, piuttosto. Vabbè, la categoria maschile è rappresentata da Alessandro Cecchi Paone, l'Isola dei Famosi 5, nel 2007 Dan Arrow, Cristiano Malgioglio, insomma... Insomma, uomini, che sono un po' gli uomini che hanno preso parte alle ex, alle vecchie puntate dell'Isola dei Famosi. Rossano Rubicondi, vabbè, là va benissimo. Invece quella femminile, Flavia Vento, Aida Jespica, poi Carmen Russo, Valeria Marini, Arianna David, che sono stati alcuni dei nomi che hanno partecipato alle vecchie edizioni dell'Isola dei Famosi. Vedremo un po' come sarà, soprattutto visto che quest'anno sarà orfana della conduttrice che ha fatto un po' la storia di questo programma, ovvero la bravissima, oserei dire, Simona Ventura. Vedremo con Nicola Savino in studio come se la caverà, anche se Nicola Savino ha avuto già altre esperienze con show di questo calibro. 18:27, buona serata, questa è la radio che si sente e si vede, CRM Happy Radio, la radio che vi regala la musica più bella, anche qualcuna ripescata, mi hanno mandato dei messaggi riguardo il brano che abbiamo inviato sino in America, però voi dovete sapere che i nostri conterrani che stanno in America tutto il giorno la ascoltano, Radio 105, Channel 1, tutta America, e ogni tanto sentire una canzone in italiano, in napoletano può fargli piacere. You and me, from the L to the O, to the V, to the E, ain't nobody gonna love you, just like me, so let me show you what it means to be my lady, maybe, if we only try. Yeah. ancora vivo il mio gatto. Mamma aveva fatto la spesa, io sul mio divano ero stesa. Nel mio sogno ho visto mio padre, aveva una valigia da fare sul letto. Mentre la riempiva diceva gioia, forse questo è l'ultimo viaggio. Io che solo adesso ho capito quanto poco c'era da fare. Nel mio sogno avevo picchiato di brutto la donna per cui se n'è andato mio padre. E la vita mi parla il sogno. E la vita mi parla così. Io che mia madre non ho mai visto piangere. Io che mia madre non ho mai. Soli. E il mio sogno non è finito, io in quel pomeriggio morivo. Ho chiamato Marta piangendo, sono andata a piedi da lei, pioveva. Mentre camminavo grondavo, da un tombino è uscito un bambino piccino, mi seguiva. Sogno che ho fatto. Loredana Errore. Muoiono da soli. 18:39, anzi 40 in questo momento. Buona serata sulla radio che si sente e si vede, CRMP Radio. Voi continuate a seguirci in streaming crmpradio.it, perché oltre a sentirci potete anche vederci, oppure inviando i vostri messaggi per richiedere la vostra musica preferita 335 5637 251, o eventualmente telefonate allo 0921 923292. Poi potete approfittarne anche del nostro profilo Facebook CRM Happy Radio. Sono tutti i modi per raggiungere direttamente la vostra radio del cuore, per richiedere la vostra musica preferita e perché no inviare anche dei messaggi. Voi intanto, se siete interessati, potete inviare il vostro curriculum a formazione chiocciola CRM Happy Radio, perché è partito il secondo corso di formazione radiofonica. È una cosa importante, io ci tengo sempre a ricordarlo, perché è una cosa che vi mette a diretto contatto con la radio. Poi la partecipazione al corso è totalmente gratuita, quindi credo sia opportuno anche approfittarne. vi porto un po' indietro nel tempo. Stop!

Kasabian, They Are Forgotten. Noi siamo quasi in dirittura di arrivo. C'è l'ultimo disco, poi saluti finali. L'ultimo disco credevo opportuno che ci riportasse in Italia, e lo facciamo con un grande artista. Ultimamente hanno fatto parlare di sé sia lui che Vasco Rossi, e poi lui ha fatto una bella dichiarazione dicendo che non l'aveva per niente con Vasco, che erano tutte cose montate solo per vendere qualche quotidiano. Sto parlando di Liga, questo è Ora e Allora. Un conto è volere vedere le stelle, un conto è farsi guidare, un conto è saperle là in alto e lasciarle un po' fare. Un conto è la rabbia che provi a 20 anni, un conto la rabbia a 40. Conto che intanto non sembra cambiare mai niente. Sai che ora e allora è ancora così, a rubare l'amore che si fa. Un conto è dovere star fuori, un conto è sentire che riesci a lasciarti dormire, un conto è svegliarti e sentirti già stanco, un conto è trovarla di fianco, un conto è sentire che il fuoco non è ancora spento. Tanto ora e allora è ancora così, a rubare l'amore che si fa rubare. Ora e allora, e quando vita che imposta il suo gioco, un conto è averlo capito, un conto è ripeterti spesso che sei fortunato. Tanto sì, è arrivato il momento dei saluti. Devo salutare Stefano. A proposito dei saluti, Stefano, che si dice un grande fan di Vasco e quindi di conseguenza ha apprezzato quello che ha fatto anche Liga facendo quella dichiarazione. Noi ci risentiremo domani ancora dalle 17 alle 19, 2 ore di bella musica, di tante notizie e naturalmente delle vostre segnalazioni. A domani, e un bacione a chi ci segue anche durante la replica della notte che parte da mezzanotte. Per On The Road è tutto, da Roby D'Antoni un bacione.